ricordi che eri un fan. I tuoi tentati Venture, ho le zombie come Tupac Shakur. Yeah, wow wow. Queste troie sono on go. Franco, vai in spoiler mode. Tu sei goofy as fuck, sembri SpongeBob. Se non vuoi darmi la head, bitch go home. Damn, I'm feeling like damn. That's why we call it on this band. Solamente per il cash. Occhiali da donna mi proteggono dai flash. Prima che la donna, baby, sei fatta per me. Wow, wow. Non sono cattolico, ma metto Saint-Laurent. Ancora che babe. Sempre malinconico, ricordi che eri un fan. Sto fumando Zaza, sentiti fortunata. Giovane Nico Talia. Giro due jeans serata quando non sono in giornata. La tua Leora vuole me, mi sa che sei aggiornata. Mi scrive sempre di Andy, c'è che sei innamorata. Wow, a me non frega un cazzo. Troppi soldi dietro per il lavoro che faccio. Porto palla in campo però non giochiamo a calcio. Yeah, wow, yeah. Mi godo quello che passo, fumo un altro po'. La tiro su troppo lungo, apro il terzo occhio. Ho problemi con me stesso perché fumo troppo. Ah, man, ho scelto di calmarmi, sono tu. Stress, in giro con 5 grammi a fare ok. Bah, a chi proverà a fottere con me.